in primo piano. Mercoledì 30 dicembre, buongiorno, ancora buongiorno da Lionello Mancini, siamo insieme ancora oggi e ancora domani, l'ultimo giorno dell'anno per la rassegna stampa. Oggi i giornali, a differenza dei giorni scorsi, scelgono delle aperture diverse, ve le scorro rapidamente, anche se i temi poi sono giocati in maniera più o meno rilevante nelle stesse prime pagine o comunque dentro i giornali. Il Corriere della Sera, scudo, tornano 95 miliardi, Tremonti, fiducia nell'Italia e la fine dei paradisi fiscali. Sui conti correnti in rosso l'antitrust accusa le banche, commissioni troppo alte. Quindi un insieme di dati economici che ci danno un po' la situazione. 95 miliardi tornano, significa ovviamente che torna la percentuale del 5% su quei 95 miliardi. La Repubblica, a morte gli oppositori dell'Iran, tra virgolette, chi lo dice? Stretta di Khamenei contro i riformisti. Ahmadinejad attacca USA e Israele, proteste nauseanti. Dice, sostenendo il presidente iraniano, sostiene che le proteste nelle piazze sono organizzate da potenze straniere. Minaccia a Londra, se non tacete, pugno in bocca. Il regime, nemici di Dio, vanno giustiziati, gli oppositori in questo caso. Arrestata la sorella del Nobel, Ebadi. Anche Repubblica ha in prima pagina lo scudo fiscale, ma molto più in basso, con minor rilievo. Il Sole 24 Ore. L'apertura, pedaggi più cari del 2,4%, da gennaio sale la bolletta del gas ma ribassi per l'elettricità, scattano gli aumenti sulla rete autostradale, incrementi record sulla Torino-Milano, pensate, aumenta del 15,5%. La Stampa sceglie invece un'apertura diciamo che mette insieme la situazione internazionale, le sfide di Iran, Russia e Cina. L'Occidente nel mirino, domani i risultati dell'inchiesta sul volo Delta. Il presidente USA, errori inaccettabili. Il volo Delta è quello che ha rischiato di esplodere pochi giorni fa a causa di quel terrorista africano. Teheran minaccia Londra, sempre la Stampa, riceverà un pugno in bocca. Putin annuncia il riarmo contro gli Stati Uniti, a Pechino giustiziato un cittadino britannico. Ecco, queste le prime pagine dei giornali, titoli principali. Oggi però dedicheremo un po' di tempo alla lettura di un racconto che troviamo su Repubblica, un racconto molto ben scritto, suppongo anche vero, perché così almeno viene presentato, insomma, come una cosa che è accaduta a un passeggero di un treno. Bene, ma cominciamo la lettura dal Sole 24 Ore. Il problema dei pedaggi, cioè stanno per abbattersi dei rincari su tutti noi. Leggiamo cosa dice. Scatteranno alla mezzanotte di domani, quindi dal 1 gennaio, gli aumenti delle tariffe autostradali. Il pedaggio sulle tratte di autostrade per l'Italia, che gestisce il 53% della viabilità nazionale, aumenterà del 2,4%. L'AISCAT, associazione delle concessionarie, ha calcolato che la media dell'incremento per tutto il settore è pari al 2,75%, in calo rispetto all'anno scorso, quando già aumentato del 3,47%. Per la Torino-Milano il rincaro più consistente, 15,5%, pronte anche le nuove tariffe dell'energia. Dal 1 gennaio fino al 31 marzo il costo della corrente elettrica calerà del 2,2%, mentre il metano rincarerà del 2,8%. Lo ha deciso l'autorità dell'energia, che ogni 3 mesi esamina gli andamenti delle materie prime energetiche e adegua le bollette di luce e gas per i consumatori che rimangono sotto la tutela tariffaria. L'autority guidata da Alessandro Ortis ha anche avviato un'indagine per verificare l'esistenza di un adeguato grado di concorrenza nelle forniture del gas per famiglie. Quindi questo è il gennaio e anzi i primi 3 mesi 2010 che ci aspettano. Sempre da Sole 24 Ore c'è un'agenda 2010, quindi che cosa ci aspetta, ed è un'agenda politica firmata da Stefano Folli e un'agenda economica firmata da Luca Paolazzi, direttore Centro Studi Confindustria. Allora, Folli, il titolo dell'analisi di Folli, di cui vi leggerò qualche breve riga, ultima fermata per le riforme. Dice Tra l'altro, Folli, cominciamo da quello che manca, una comune idea della Repubblica che si vuole costruire. Avere un'idea comune non significa ovviamente essere d'accordo su tutto, bensì condividere una certa visione delle istituzioni e di quale sia l'equilibrio fra diritti e doveri. E più avanti, a ben vedere, dice Folli riferendosi alla voglia, diciamo, a questa idea comune di Repubblica, la voglia di fare le riforme, dice, a ben vedere gli elogi rituali che accolgono i periodici appelli del capo dello Stato equivalgono all'omaggio che il vizio rende alla virtù. Sotto, Paolazzi, il diluvio è passato, ma l'arcobaleno... Che cosa dice Paolazzi? Dice che effettivamente la crisi mondiale è finita, dice la recessione globale è terminata 6 mesi fa, anche se per molte famiglie e imprese è proseguita oltre e proseguirà ancora per non poco tempo, perché non è stata una normale fase ciclica, cioè un momento che cadenza il respiro dell'economia, ma un passaggio epocale, catalizzato e precipitato dalla crisi bancaria. Dice anche dire che la finanza... ha avuto dei comportamenti insostenibili, significa essere morbidi, come dire, ha fatto molto di peggio. E scrive ancora Paolazzi, siamo a pagina 2 del Sole 24 Ore, sul dopo crisi. Solo preparandosi alle opportunità offerte dal dopo crisi si accelera l'uscita positiva, partendo dalla constatazione che l'Italia era in crisi prima della crisi, anche se una sua parte si stava aggiustando. Una crisi simboleggiata dalla lenta crescita, cioè dalla ricchezza negata e dall'arretramento del PIL pro capite rispetto al resto dell'area euro. Negarlo ancora sarebbe imperdonabile, l'imperdonabile errore che impedisce di accettare che le cause dell'Italian disease sono tutte interne e nostrane e di rimuoverle con le riforme strutturali da troppo tempo al palo o ancora troppo timidamente abbozzate. Questo dunque Luca Paolazzi sul Sole 24 Ore nell'agenda economica per il 2010. A pagina 12 e 13 del Sole 24 Ore troviamo la scia nascosta dell'anno che va, i 10 fatti che il 2009 ci lascia in eredità e che influenzeranno il nostro futuro. Tra questi vi cito l'asse diplomatico, il nuovo asse diplomatico Cina-India, un telefono rosso è attivo tra Pechino e New Delhi, vi ricordate il telefono rosso che una volta c'era tra Russia e Stati Uniti, anzi tra Unione Sovietica e Stati Uniti. E ancora, all'ultimo punto, le spie per le minacce globali, cinese, farsi, arabo e addestramento super, quindi come si addestrano i nuovi 007, quelli di cui Obama è molto scontento per come hanno gestito questi ultimi, diciamo, scampoli, quest'ultimo periodo di sicurezza fino a questo quasi attentato sull'aereo per Detroit. A pagina 17 del Sole 24 Ore, l'antitrust bacchetta le banche. Per l'autority il rosso sul conto corrente è più caro nonostante l'abolizione dei costi legati al massimo scoperto. Replica l'ABI, l'associazione bancaria. Perplessità nel metodo e nel merito. Serve un confronto. E poi ci sono i dati Istat sul budget delle famiglie che sono più stretti per il 2010. Ma torno alla prima pagina del Sole 24 Ore perché entriamo in un filone attraverso una notizia che c'è solo sul Sole 24 Ore, attraverso un filone che è quello della giustizia. Di giustizia si parla su molti giornali a proposito di Craxi e della sua figura, a proposito questo spacciatore giustiziato con un'iniezione letale in Cina. E, insomma, ci sono diversi elementi che ci riportano a questo tema essenziale, diciamo, della gestione della giustizia. Bene, in Italia la giustizia è un arzigogolo che è ormai praticamente ingestibile. Il titolo, anche se a molti forse farà piacere, ma letto attraverso, come dire, il tentativo di far rispettare delle regole in un nostro paese, non è una grandissima notizia. La Cassazione aiuta gli automobilisti indisciplinati. Multato se passi col rosso vale solo se c'è il vigile. Le multe ai semafori non sono valide se non c'è il vigile. Dopo anni di modifica al codice della strada, studio e omologazione di costosi apparecchi in grado di accertare in automatico le infrazioni, adesso la Cassazione dice che ci vuole sempre un agente per verificare tutto sul posto. Questa notizia, che è sulla prima pagina del Sole, giustamente viene spiegata nella sua interezza a pagina 28, cioè perché la Cassazione si è occupata dei semafori rossi, ma vi vorrei leggere soprattutto a pagina 12 il commento del giornale che dice: un giudice da multare. Che significa passare col rosso? Dovrebbe essere semplice spiegarlo, ma nel contenzioso infinito nato da quando i comuni hanno installato i rilevatori automatici, le macchine fotografiche, ai semafori, hanno installato i rilevatori automatici ai semafori, non lo si è ancora capito. Troppe le variabili tirate in ballo da tecnici, avvocati e giudici. Ieri, per dire, la Cassazione doveva dire l'ultima parola in una questione riguardante un automobilista di Busto Arsizio, reo di rosso in flagranza fotografica, ma sollevato da sanzione da un giudice di pace. Il busillis normativo verteva sull'esatto momento in cui va scattata la prima delle foto, anzi la prima delle almeno due foto che devono documentare l'infrazione. Il veicolo deve stare a cavallo della striscia di arresto un po' prima o un po' dopo. I supremi giudici non hanno risposto e hanno basato la loro decisione favorevole all'automobilista su altri aspetti che, stando alla scarna ricostruzione dei fatti fornita nella loro sentenza, non erano stati sollevati nel giudizio di merito. Insomma, si è aggiunta altra confusione a una materia già di per sé che non ne aveva bisogno e che è delicatissima perché riguarda la sicurezza di tutti. Passare con il rosso non si deve. Questa è la conclusione assolutamente condivisibile del Sole 24 Ore davanti a una idea di giustizia che in Italia, ripeto, è una, un reticolo di tunnel sotterranei che ogni tanto fanno franare delle certezze. Cioè, col rosso non si passa, punto. Le cinture di sicurezza vanno allacciate, non è così complicato. Giustizia, veniamo alla Stampa. La Stampa, Massimo Grambellini, che nel suo buongiorno affronta un tema che troverete su qualunque giornale voi leggiate, la figura di Bettino Craxi, per il quale la sindaco di Milano, Moratti, ha proposto di intitolare una via. E allora scrive Massimo Grambellini: è giusto dedicare una via di Milano a Bettino Craxi nel decennale della morte? Proviamo a sollevare lo sguardo dalla rissa che si è di nuovo scatenata intorno allo scheletro per mere ragioni di bottega. Comunque la si pensi, il personaggio esce ingigantito dal paragone con i nani dell'attualità, ma anche il riconoscimento più entusiasta delle sue qualità politiche non può passare sopra una considerazione semplicissima. Si tratta di un uomo che morì in contumacia dopo che la magistratura, in nome del popolo italiano, cioè nostro, lo aveva dichiarato colpevole di corruzione. Ora, uno Stato che non sia una barzelletta può rendere pubblico omaggio a un cittadino che lo stesso Stato aveva condannato in via definitiva al carcere? Per farlo dovrebbe negare alla magistratura che lo processò ogni legittimazione. Dovrebbe riconoscere che in quegli anni, in Italia non esisteva un sistema di poteri condiviso dalla comunità, ma una guerra civile fra bande contrapposte che, dopo una vittoria iniziale dell'ala giacobina, portò a una restaurazione incarnata dal migliore amico di Craxi e osteggiata di continuo dai rigurgiti degli sconfitti. È una visione dissociata della storia patria e personalmente me ne dissocio, scrive Grambellini sulla Stampa, poiché lo Stato è sempre lo stesso, il nostro, sia quando sugli altari sale il pool di Mani Pulite, sia quando ci sale Berlusconi. Riterrei più giusto lasciare la figura del politico Craxi al giudizio degli storici e dedicare una via di Milano alla poetessa incensurata Alda Merini. Questo dunque Grambellini, che a suo modo affronta un altro problema che ha a che fare con la giustizia. Bene, sempre dalla Stampa, in questa prima parte della nostra rassegna, a pagina 8-9 direi che è il giornale che sintetizza meglio di tutti il problema di come si vive in Italia dal punto di vista economico, quindi mettendo insieme la rilevazione Istat di ieri e la questione delle bollette che abbiamo letto insieme come apertura del Sole 24 Ore, e la questione delle banche, anche questa citata da Sole 24 Ore. Bene, la Stampa dice: redditi d'Italia in affanno, famiglie in crisi, a fine mese il 17% è in rosso. In difficoltà con mutui e spese per la casa. I più colpiti sono dipendenti e pensionati. Nel sud la percentuale dei poveri sale al 29%. La CGIL, troppa cassa integrazione e disoccupazione. Allora, le I dati che la stampa estrapola dall'Istat in queste sue pagine 8 e 9 sono i seguenti. La fotografia dell'Istat. Le condizioni di attenzione si riferiscono al reddito e condizioni di vita nel 2008. E insomma, temo che nel 2009 le cose siano persino peggiorate. Allora, i principali problemi. Arriva a fine mese con molta difficoltà il 17% delle famiglie, non riesce a riscaldare la casa adeguatamente l'11%, in arretrato con il mutuo 7%, in arretrato con le bollette 12%, non riesce a sostenere spese impreviste da 750 euro in su il 32%, non ha avuto soldi per alimentari il 5-7%, spese mediche l'11,2% delle famiglie, per i vestiti necessari il 18% delle famiglie, per i trasporti l'8% delle famiglie italiane. La geografia del disagio ci fa vedere che chi è messo meglio è il centro Italia, anzi il nord, col 4-3% delle famiglie che non ha soldi per alimentari, e chi è messo peggio è il mezzogiorno. Qui c'è tutto un discorso da fare sul lavoro sommerso, su quanto non viene dichiarato eccetera, però insomma questa è la fotografia che ci dà l'Istat. C'è anche un sondaggio sul futuro, che come se lo immaginano gli italiani, e gli italiani se lo vedono per il 50% il futuro come negativo, per il 43% positivo, il 7% senza opinione. Che cosa c'è di particolarmente positivo per l'Italia? La ripresa economica per il 25%, la crisi economica per il 37%. Dal giornale La Repubblica, dal quale vi leggerò ampi brani di questo racconto di Shurim Vogelman, che è un scrittore ed editore. Il titolo di questo racconto è «Quel ragazzo senza braccia sul treno dell'indifferenza, privo di biglietto, mostra i soldi al controllore, ma viene costretto a scendere». Ecco, tra un attimo ve ne leggerò delle ampie parti, perché è un racconto che, al di là di che è ben scritto, ma soprattutto rende abbastanza l'idea di cosa può accadere quando viene interpretata in una maniera molto rigida una burocrazia, e quando viene esercitato un potere al di là di ogni senso comune. Allora, prima di leggere questo racconto, dicevo, a morte gli oppositori dell'Iran e l'apertura di Repubblica, dallo scudo fiscale rientrati 95 miliardi, l'abbiamo già visto su altri giornali, il diario di Farouk, kamikaze depresso. La Repubblica è l'unico giornale che dedica amplissimo spazio, riprendendo da internet dei post, cioè delle frasi scritte da questo attentatore Umar Farouk Abdul Mutallab, che ha tentato di farsi esplodere sul volo tra l'Olanda e gli Stati Uniti, e da cui si capisce, come dire, si evincono una serie di di cose, come per esempio la cultura. Ecco, ve ne leggo brevissimamente uno di questi post. Poi penso, scrive il giovane Mutallab, sono solo senza amici e mi sento depresso, su un forum islamico. E scrive tra l'altro il giovanotto: poi penso che questa solitudine mi porti ad altri problemi, quando mi sento solo si risveglia in me il naturale istinto sessuale e faccio fatica a controllarlo, a volte questo mi fa commettere peccati minori, ad esempio non abbassare gli occhi di fronte alle donne. E poi dice ancora: sono uno studente in un collegio con pochi musulmani, da qualche anno faccio un po' di dawah, diffusione dell'Islam, soprattutto raccomandando il bene e proibendo il male. Ecco, da questo tipo di pensieri e di cultura, da questo tipo di problematiche che affronta un ragazzo di 16-17 anni, nascono poi anche da questo, ovviamente non solo da questo, ma nascono queste figure terribili dei kamikaze. Ancora dalla prima pagina di Repubblica: cabine telefoniche come i panda, adottatele con un'email. Telecom nel prossimo anno 2010 ne rottamerà 30.000, referendum tra gli utenti per salvarne una parte. Allora, da Repubblica veniamo a questo racconto. Caro direttore, scrive Shurim Vogelman, È domenica 27 dicembre, Eurostar Bari Roma. Intorno a me famiglie soddisfatte e stanche dopo i festeggiamenti natalizi. Studenti di ritorno dalle proprie università, lavoratori un po' tristi di dover abbandonare la propria città per riprendere il lavoro a nord. Insieme a loro sale un ragazzo senza braccia. Il racconto prosegue a pagina 36. Sì, senza braccia, con due moncherini fatti di tre dita che spuntano dalle spalle. È salito sul treno con le sue forze, posa la borsa a tracolla per terra con un enorme sforzo del collo e la spinge con i piedi sotto il sedile. Crolla sulla poltrona. Dietro gli spessi occhiali da miope, tutta la sua sofferenza fisica e psichica per un gesto così semplice per gli altri, salire sul treno. Profondi respiri per calmare i battiti del cuore, avrà al massimo 30 anni. Il treno parte, arriva il controllore che gli chiede il biglietto. Il ragazzo dice: no biglietto, non ho fatto in tempo, handicap. Con la bocca tira fuori dal taschino un mazzetto di soldi. Sono la cifra esatta per fare il biglietto. Il controllore li conta e con tono burocratico dice al ragazzo che non bastano, perché fare il biglietto in treno costa, in questo caso, 50 euro in più. Il ragazzo, farfugliando, le dice di non avere altri soldi e di non poter pagare nessun sovrapprezzo. E con la voce incrinata dal pianto per l'umiliazione ripete: handicap. Grande imbarazzo dei passeggeri del vagone. La controllore, una ragazza, dice, sui 30 anni, una divisa perfetta, ben truccata, eccetera, decide di risolvere la questione in altro modo e, in ossequio alla procedura appresa al corso per controllori provetti, si dirige a passi decisi in cerca del capotreno. Arriva il capotreno, continua il racconto. Il capotreno interviene e dice che, a suo parere, la soluzione giusta sarebbe stata il fatto di fare il biglietto nella macchinetta self-service. Ma non ha le braccia, come faceva a usare la macchinetta del self-service? Chiedo al capotreno, che con la sua logica burocratica mi risponde: c'è l'assistenza. Certo, rispondo io, sempre pieno di assistenti delle Ferrovie dello Stato accanto alle macchinette self-service. E aggiungo che le regole sono valide solo quando fa comodo, perché durante l'andata l'Eurostar con prenotazione obbligatoria era pieno di zeppo di gente in piedi senza biglietto e il controllore non è nemmeno passato a controllarli. E lo sa perché, ho concluso? Perché quelle persone le braccia ce l'avevano. Avanti così. Il capotreno alla prima stazione chiama la polizia, salgono sul treno due agenti, due signori tranquilli di mezza età, nessuna aggressività nell'espressione del viso o nell'incedere. Devono essere abituati ai senza biglietto e che non vogliono pagare. Si dirigono verso il giovane disabile e, come lo vedono, uno di loro alza le mani al cielo e ad alta voce esclama: ah, questi, con questi non ci puoi far nulla, altrimenti succede un casino. Questi hanno sempre ragione, questi non li puoi toccare. E avanti così. Il finale di questa storia ve lo lascio, è un finale assolutamente assurdo a mio avviso, e comunque è una storia vera, ci sono i riferimenti del treno. Alla fine a questo signore che ha scritto questo racconto chiedono le generalità perché il controllore si è offeso, lui a sua volta le chiede al controllore, ma lei non gliele dà, dice: si appunti il biglietto, il numero del treno e poi faccia le sue ricerche. Questo su Repubblica, che dedica pagina 2 e 3 all'Iran. Il giorno della repressione, giustizieremo gli oppositori. Mia sorella in cella per farmi tacere, ma la lotta per la democrazia non si fermerà. Questo è Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace, alla quale hanno arrestato appunto la sorella. La vendetta mirata del regime per fare il vuoto attorno ai leader. In carcere parenti, collaboratori e amici dei riformisti. Questo dunque su Repubblica, che dedica ampio spazio sia alla situazione in Iran sia, come dicevo, al diario del Kamikaze. Bene, lasciamo la Repubblica, andiamo al Corriere della Sera per dedicarci alla politica italiana. C'è un articolo di Pane Bianco, Il piede in due staffe, pagina 1 del Corriere della Sera, il caso Puglia e lo scontro nel PD. Una delle ragioni per le quali non conviene prendere troppo sul serio l'attuale revival di discussioni sulle riforme costituzionali è che le trattative sulle riforme sono come i negoziati internazionali, non portano a nulla se l'uno o l'altro, sia esso partito politico o uno Stato, dei supposti protagonisti della trattativa, è debole e diviso al suo interno, il che lo rende un negoziatore poco efficace e poco affidabile. E quindi, parlando del PD, dice: Le difficoltà della leadership del PD sono ben rispecchiate nel modo in cui il partito si avvia verso le elezioni regionali. Il Lazio non ha ancora trovato un candidato da opporre a uno sfidante fortissimo come Renata Polverini. In Puglia la questione Nichi Vendola ne sta da tempo dilaniando le carni. La Campania è già praticamente persa. Piemonte e Liguria, se i sondaggi sono attendibili, sono in bilico. Il PD rischia assai grosso. E più avanti. La malattia si chiama crisi di identità e le incertezze del partito sulla questione delle alleanze ne sono la spia. L'amletico dubbio è rompere con Antonio Di Pietro e allearsi con l'UDC, adottando con decisione quello stile di opposizione pacata e responsabile che è nelle corde di Bersani, o perseverare in un'alleanza che spaventa e allontana i moderati? E conclude Pane Bianco in questa spietata analisi della situazione dell'opposizione. In politica quelli che tengono il piede in due staffe, quindi Di Pietro o UDC, rischiano molto, rischiano di essere considerati da chi li osserva né carne né pesce. È la condizione peggiore che si possa immaginare quando si tratta di andare a chiedere ai cittadini consensi e voti. Dedico l'ultimo minuto di questa rassegna stampa a pagina 29 del Corriere, una notizia che c'è solo sul Corriere della Sera a livello nazionale, anche se localmente se ne parla molto. Dustin e le Marche, flop su Leopardi. Dustin Hoffman, testimonial della regione, legge l'infinito, ma sbaglia metrica e parole. Non è bastato un vocal coach, quindi un addestratore, diciamo, di parlata, all'attore, il critico Rigoni, un modo per deformare un capolavoro. Si tratta di uno spot che utilizza le parole dell'infinito di Leopardi per reclamizzare le Marche, che può essere una buona idea. L'articolo è firmato da Elsa Muschella e tuttavia non dice alcune cose. Non dice per esempio che lo spot è costato 2 milioni di euro, e che di questi tempi probabilmente servono a un sacco di cose, che ha suscitato le proteste dei giovani che si dedicano a queste attività, tipo girare uno spot, quindi registi, eccetera. Andate per esempio a vedere il blog di Andrea Lotovichetti, che è un regista marchigiano, giovane, e che è arrabbiatissimo, e soprattutto che il regista invece di questo spot che adesso il cui nome mi sfugge, ma insomma pare che fosse un ex assessore di una giunta delle Marche. Insomma, una delle queste solite storie probabilmente in cui i soldi arrivano sempre agli amici degli amici. Con questo io vi saluto, ringrazio Peter Bescapè in regia e ci sentiamo domattina alle 7:30.